italiani siamo un popolo molto strano, perché da un lato non abbiamo nessuna autostima, abbiamo bellezze che non sappiamo valorizzare, ci lamentiamo di tutto, non siamo un popolo, diciamo, con le palle come altri, però poi quando qualche italiano ottiene dei premi, allora ci stringiamo attorno alla bandiera, ci sentiamo orgogliosi quando vinciamo i mondiali, oppure magari arrivano le Olimpiadi e ci appassioniamo per degli sport di cui non sappiamo nulla, pattinaggio su ghiaccio, qualsiasi cosa, ping pong, oppure guarda, vediamo le regate di vela, insomma diventiamo patriottici. Poi ci sono dei casi rari nei quali ci sentiamo orgogliosi di essere italiani per qualcosa che va al di là dello sport, e a partire da oggi per 5 settimane vogliamo riproporvi le storie e le vite di alcuni tra i più grandi italiani, nella fattispecie parlando di musica, tra i cantautori più significativi della storia del nostro paese, e lo facciamo in occasione di una mostra che si chiama Noi non erano solo canzonette, una mostra che racconta proprio la storia dell'Italia attraverso le 100 canzoni che ne hanno fotografato la società, la politica, il costume attraverso gli anni, e iniziamo con l'Italia del riscatto, della rinascita, e a rappresentarla con le sue canzoni c'è Domenico Modugno. Domenico Modugno, so let's bring him on. Volare, my paisan. Thank you very much. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Sì, volare, volare nel cielo infinito, volare lontano, e nel suo caso magari volare per scappare, andare a cercare fortuna partendo da un piccolo paese della Puglia. Siamo a San Pietro Vernotico, siamo in provincia di Brindisi, siamo nel 47. Domenico Modugno non ha ancora 19 anni, il padre è comandante dei vigili urbani, si è trasferito lì partendo da Polignano a Mare, dove lui è nato nel 1928, e lui ha l'inquietudine di un ragazzo che sta studiando per prendere il pezzo di carta, il diploma, però nella sua testa, nel suo cuore, lui vuole scappare per inseguire i suoi sogni. Cioè, io ero a San Pietro Vernotico e dovevo studiare, facevo l'ultimo anno di ragioneria. Allora, quando ho capito che per mio padre era importantissimo io diventassi ragioniere, che mi impiegassi a uno stipendio fisso al mese per tutta la vita, quando ho capito che era, cioè, che era una cosa definitiva, o diventare ragioniere o scegliere la libertà. E così un giorno, all'insaputa di tutti, oddio, mia madre lo sapeva, ma mio padre non sapeva niente. E così sono partito, sono andato a Torino, sono andato alla città più lontana da San Pietro Vernotico, dico, voglio andare al nord, al più nord possibile. Quando si è giovani può succedere di partire e inseguire i propri sogni, soprattutto quando si vive in un luogo che non offre molte prospettive, e così andiamo al 1947. La guerra è finita e la Puglia è come tutta l'Italia del resto, insomma, si sta leccando le ferite, però certo al sud queste ferite per molti anni sono state anche più profonde che al nord. A Torino per esempio invece c'è la Fiat, si ricomincia, la gente è partita e da lì scrive lettera ai parenti dicendo che c'è lavoro, ci sono possibilità, c'è speranza, e così Mimmo sale su un treno e va proprio a Torino, dove pensa di trovare un futuro, invece naturalmente, soprattutto agli inizi, va a sbattere contro la dura realtà. Passa 6 mesi a fare il cameriere, a vendere copertoni usati al mercato, insomma capisce che Torino non è la città giusta per cambiare vita, decide di tornare a casa. Insomma, io sono andato via perché volevo fare qualche cosa di diverso, cioè il punto preciso l'avevo, volevo cantare, volevo fare l'attore. Poi ho scoperto che a Torino il cinema non si faceva e non si cantava neanche a Torino. Sì, è una bella città così, ma insomma per trovare una spinta, per farsi conoscere, non era una città. Poi faceva freddo, e dove fa freddo bisogna scappare via. scappare, ricorre ancora questa parola, sembra una necessità, scappare dalla famiglia, poi tornare perché si scappa dal freddo, da una città che non ti ha accolto bene, e lui ha un carattere esuberante, non trova pace, appena tornato a casa scappa di nuovo, fa le valigie, va a cercare fortuna in un'altra città ancora più vicina a casa, più calda, la città dove si fa la radio, dove si fa il cinema, stiamo parlando ovviamente di Roma. Quello di Roma è un ambiente molto diverso da Torino, siamo nella città del cinema, Cinecittà, siamo nel 1950, la televisione non esiste ancora, però la gente si diverte ascoltando le trasmissioni radiofoniche oppure andando al cinema o a teatro. La sera si comincia a uscire nei ristoranti, nei bar, c'è qualcuno che canta per intrattenere i clienti, ne abbiamo parlato tante volte, il dopoguerra, la voglia di ripartire, magari anche di tornare a fare qualche sorriso. E lui, Modugno, la fisarmonica la suona, ma soprattutto suona la chitarra, riesce a trovare dei lavori extra per mantenersi, perché alla sera lui intrattiene gli ospiti in un ristorante di via Margutta, 1.000 lire al giorno e un pasto gratis. Insomma, risolve almeno i primi problemi, quelli proprio della sopravvivenza. Poi nel 50 c'è l'anno santo a Roma, c'è più predisposizione all'accoglienza e magari è facile anche trovare un posto da dormire, magari fingendosi un pellegrino. Sono andato a Roma, ho bussato ai frati camaldolesi, a San Gregorio al Celio. Anche lì sono andato, era l'anno santo, mi ricordo, il periodo dell'anno santo, quindi avevo la scusa che ero un pellegrino, che era, cioè, anch'io sarei andato all'anno santo, però il mio scopo era un altro. Eh sì, lo scopo è quello, trovare l'occasione giusta, il colpo d'ala per cambiare vita. Lui ha vinto una borsa di studio per attori dilettanti, frequenta il centro sperimentale di cinematografia, comincia a delinearsi quella sua poliedricità che lo farà cantare, lo farà recitare. Un cantattore lui si è definito in varie occasioni. Io quando recito canto un po' e quando canto recito pure, e quindi è, insomma, una cosa e l'altra messe insieme, non le posso scindere, perché io comunque cerco di rappresentare sempre qualcosa. Così arrivano i primi contatti col cinema, con la radio, poi accade una cosa strana, è perché il dialetto di San Pietro Vernotico ha molte assonanze con il siciliano. Così Modugno si presenta per delle audizioni alla radio con un repertorio di canzoni pugliesi in dialetto, gli fanno tutti degli apprezzamenti per la sua parlata siciliana. Le prime canzoni che ho cominciato a fare io le ho fatte in questo dialetto, poi le ho fatte sentire, e ognuno che sentiva questa canzone diceva: siciliano, vero? Una canzone siciliana? No, pugliese, no, non è possibile, il pugliese è Cachirca, Curca, Venuto, Cadu, il barese, il pugliese conosciuto, non è conosciuto con questo accento. Così poi sono andato, ho fatto delle audizioni alla radio e hanno detto: simpatiche queste canzoni siciliane. Dico: no, pugliese, no, guarda, sono siciliano, pugliese. Insomma, alla fine ho scoperto che siciliano era più importante del pugliese, e così sono passato per siciliano. E già ti danno un sacco della paglia che non scecco, non cammina, che madonna che stasera non ci va. Ah, non c'è chi sei stravio, ma ricordi. Insomma, basta qualche spettacolo in Sicilia per affinare il dialetto e Modugno è pronto per presentarsi alle audizioni come cantante, come attore siciliano. E peraltro, insomma, è l'inizio di un grande equivoco che lui si porterà dietro per tutta la vita. Avrà anche dei problemi da parte della sua terra vera di origine. Però comunque siamo a Roma, Cinecittà, si fa il cinema, cercano comparse i Pompieri di Vigiù, Filomena Marturano, carica eroica del 52, lui lì interpreta un soldato ovviamente siciliano che in una scena canta in dialetto una ninna nanna, e così insomma viene chiamato a lavorare alla radio in una trasmissione con un titolo profetico, Il Trampolino, e la prima collaborazione con la radio gli apre le porte di questo nuovo mezzo per farsi conoscere, e tutti cominciano a rendersi conto di quello che è capace di fare. Poi negli studi della RAI si fanno tanti incontri, per esempio uno è con Franco Nebbia, che aiuta Modugno a arrangiare una ninna nanna, quella ninna nanna popolare che lui aveva cantato nel film Carica eroica, la trasforma nel suo primo disco, siamo nel 1954. Pensare che questa canzone stava per attraversare l'oceano, stava per diventare una canzone cantata da Frank Sinatra. E sì, perché Frank Sinatra arriva in Italia, alla radio lo vogliono omaggiare con delle canzoni siciliane, perché Sinatra è di origine siciliana, è l'unico cantante in Rai capace di cantare in siciliano è proprio lui, Domenico Modugno, il pugliese Domenico Modugno. Sinatra ascolta la ninna nanna, vorrebbe un nastro da portare in America, insomma sembra profilarsi una di quelle favole che cambiano la vita. Mi hanno telefonato a casa, guarda che c'è Frank Sinatra che vuole cantare questa canzone. Allora sono andato da uno per farmi scrivere la canzone perché non sapevo la musica, avanti indietro, finalmente ho portato questa canzone e Frank Sinatra invece era partito, della canzone se ne era dimenticato, poi mi diceva la manderà a Londra, insomma non l'ho visto più e la canzone non l'ha cantata più. Però questo fatto che Frank Sinatra si interessasse a questa canzone di Modugno, chissà, lui l'avrà fatto proprio per dire che mi hanno fatto questo omaggio, diciamo che è una bella canzone, forse non gli piaceva neanche. Però questo fatto ha smosso un ambiente di musicisti, un ambiente della radio, cioè, se una canzone di questo piccolo cantantino in siciliano è piaciuta a Frank Sinatra, vuol dire che questo c'ha altre canzoni. Eh sì, le acque cominciano a muoversi, arriva il primo contratto discografico con l'RCA, arrivano i primi successi, canzoni che traggono ispirazione dalla tradizione popolare, e così esce La donna riccia, La sveglietta, O pisci spada. Poi arriva una canzone storica, viene, si dice sia ispirata alla misteriosa morte di Raimondo Lanza di Trabia, è una canzone meravigliosa, a mio giudizio la migliore che lui abbia mai fatto, tratta con eleganza il tema del suicidio, insomma è una canzone che a me è piaciuta talmente tanto che l'ho anche rincisa, e devo dire con orgoglio che lui mi ha fatto un sacco di complimenti su questa versione, e poi l'abbiamo anche cantata assieme e io nella vita l'ho ricantata più volte, e sto parlando naturalmente di Vecchio Frac. Insomma, la strada comincia a diventare in discesa, in 2 anni lui pubblica 2 album e poi conosce e sposa Franca Gandolfi, un'attrice conosciuta al Centro Sperimentale di Cinematografia, che gli rimarrà accanto per sempre, comincia a vedere un futuro più roseo di quando ha lasciato la provincia di Brindisi per inseguire il successo. Però in Italia, in quegli anni e un po' anche adesso, il vero successo si raggiunge solo andando a Sanremo. E non basta in quegli anni partecipare al festival, bisogna andare in finale, perché lì le eliminazioni ti cambiano la vita, e se vai in finale sarebbe il caso di vincere. E nel 1956 c'è il primo abboccamento con il festival di Modugno, e però è solo autore, non cantante, perché la sua canzone che si chiama Musetto viene interpretata da Gianni Marzocchi, arriva solo 8ª, e insomma per vincere Sanremo bisogna alzare il tiro, bisogna scrivere una canzone che sia al di sopra dell'ordinario, qualcosa che non sia una semplice canzonetta orecchiabile, e il pubblico di Sanremo ascolta anche il testo, in quegli anni i testi sono importanti e il pubblico è un giudice esigente, in quegli anni bisogna trovare un'idea unica, stiamo parlando di uno dei più grandi colpi d'ala della storia della musica del Novecento. Io penso sempre che la nascita di una canzone è un fatto misterioso, proprio come, non so, è come la miniera, no? Come il rabdomante che va a cercare l'acqua o un'altra cosa, o il cercatore d'oro che va lì sicuro di trovare qualche cosa e poi non la trova. Insomma, la canzone, per me, le note stanno nell'aria. Se uno stato d'animo musicale, che io lo penso in una determinata maniera, e non mi esce fuori la parola giusta, Migliacci è quello che trova la parola, cioè questo stato d'animo lui lo riprende e lo rigenera in un altro senso, no? Franco Migliacci, uno di quei grandi geni della canzone italiana, poeta, talent scout, uomo arguto, una persona di grande sensibilità, uno capace di interpretare le emozioni dei cantanti coi quali ha lavorato e lavora. L'incontro con Modugno è uno di quegli incontri che cambiano una vita. Nasce una canzone, è una combinazione di musica, di testo, e lui partecipa con questa canzone al festival di Sanremo del 58, è il 1 febbraio, siamo ancora al Salone delle Feste del Casinò, e in quegli anni, così come successe ancora per tanto tempo, i cantanti sono 2, la canzone è di Migliacci Modugno, uno è Johnny Dorelli e l'altro è proprio lui, Domenico Modugno. C'era un'aria nuova a Sanremo, ricca d'ossigeno, e una ventata fresca è stata la canzone vincitrice, un autentico amplè. Oh, Nel gesto di Modugno c'è tanta giovinezza e tanto entusiasmo. L'entusiasmo di chi ha dato la prima allegra scrollata a quel vecchio edificio pieno di zucchero e ragnatele nel quale rischiava di adagiarsi la canzone italiana. Pare tutto sia nato dall'osservazione di Chagall. E insomma, una canzone dove si parla appunto di volare, si parla di cieli dipinti di blu, è una rivoluzione totale per la musica italiana, anche per un gesto a quell'epoca ritenuto stranissimo, cioè Modugno, quando arriva l'inciso, la celeberrima Volare spalanca le braccia, e in un'Italia così compassata quel gesto diventerà uno spartiacque tra la canzone degli anni 50 e la canzone, diciamo, del futuro. E la canzone vince, diventa un grande successo in tutta Italia, ma neanche Modugno in quel momento può immaginare fin dove arriverà questa canzone. Questa canzone sta per diventare un successo mondiale. Il falco, il falco, il falco, e il gabbiano, e il gabbiano, e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Domenico Modugno, una storia che parte da un paese della Puglia e che va avanti con il nostro protagonista, che in qualche modo diventa o si spaccia interprete, autore di canzoni siciliane, ma che poi arriva al suo colpo d'ala, ed è un colpo d'ala che cambia la storia della canzone italiana, perché assieme a Franco Migliacci scrive Nel blu dipinto di blu, che poi tutti hanno soprannominato Volare. Con questa canzone lui vince l'ottava edizione del Festival di Sanremo, diventa la canzone del momento, tutti la suonano e la cantano, e anche i turisti stranieri cominciano a rimanere affascinati da questa canzone. Quando Volare ha vinto il Festival qui in America non sapevano neanche che esistesse il Festival di Sanremo. È stata una fortuna anche lì, c'è stato uno della radio, che ha una stazione radio a New York, che era in viaggio di piacere qui con la moglie, ha sentito questo disco, questa canzone, l'ha presa, gli è piaciuta, è andata a New York e ha incominciato a suonare questo disco. Dice, voi, io sono stato in Italia, e l'ha portato come souvenir, proprio una volta lo mette sto disco. Invece, una volta messo sto disco, sono arrivate decine di lettere che lo volevano risentire, l'ha rimesso, sono arrivate altre lettere, insomma, piano piano in 3 mesi è in tutta l'America, è scoppiata Volare, ma è scoppiata così, non perché veniva da un festival, è stato per una fortuna. Magari se questo qui non fosse andato in America con questo disco, la canzone non l'avrebbero suonata, chi lo sa. Naturalmente non possiamo sapere come sarebbe andata, secondo me in qualche modo quella era una canzone che non poteva non esplodere. Comunque la fortuna gira per il verso giusto. Nel 58 Modugno è già un signore che ha vinto 3 premi Grammy e che è stato ospite all'Ed Sullivan Show, sono quegli spettacoli, insomma, l'Ed Sullivan Show, cioè, pochi anni dopo avrà i Beatles, vanno solo i più grandi, e diventa Mister Volare, il suo gesto liberatorio, quello di spalancare le braccia ogni volta che interpreta la canzone, diventa un must. È uno stratagemma del corpo che accentua la capacità comunicativa del ritornello, che sicuramente Modugno ha fatto un po' per istinto, ma anche perché comincia a rubare il mestiere dell'attore. Insomma, i suoi studi al Centro Sperimentale forse gli servono anche quando sale sul palco. L'anno dopo si torna a Sanremo e Modugno va ancora una volta sul gradino più alto, questa volta con un brano scritto assieme a Dino Verde, il titolo è Piove, ma come è già accaduto per Volare si guadagna questo pezzo un secondo titolo, perché tutti chiamano questa canzone Ciao Ciao Bambina. E il periodo che va dal 58 al 64 è un periodo particolare e fortunatissimo per Modugno. Nel 62 arriva una terza vittoria al Festival di Sanremo con Addio Addio, è una vittoria annunciata perché in coppia ci sono i due big, lui e Claudio Villa, e poi invece vincerà a sorpresa nel 66 con una canzone, insomma, di ben altro spessore, molto più intensa, che si chiama Dio come ti amo, e che lui canta in coppia con Gigliola Cinquetti, che 2 anni prima aveva trionfato a Sanremo all'Eurofestival con Non ho l'età. Però intanto lui sta accarezzando l'idea e percorrendo una strada diversa, è una carriera parallela, e ecco perché lui si dà la definizione di cantattore, uno che sa cantare, ballare, recitare. In Italia ci sono 2 impresari che sanno valorizzare queste doti, si chiamano Garinei e Giovannini. Che dici? Senza pace io, è Cristo, sta terra che brucia in mezzo al mare e noi bruciamo con essa, Cristo la pace mia, e io per Cristo combatto, e un giorno essa renderò libera, ma per darla ai figli suoi, e non a loro niente. E poi basta, ne ha visto un suo discorso per te. Già, perché per te le donne non dovrebbero... Silenzio! Alla donna la bocca ci deve servire soltanto per respirare, mangiare e baciare il suo uomo. Quando il bacio le viene richiesto. E questo è un frammento della commedia Rinaldo in campo, interpretata con grande successo da Domenico Modugno e da una splendida e bellissima Delia Scala. Si comincia nel 61 a Torino al Teatro Alfieri in occasione dei festeggiamenti legati al centenario dell'Unità d'Italia, perché è una storia insomma particolare, la storia di un brigante siciliano, Rinaldo Dragonera, che è una specie di Robin Hood all'italiana, e questa storia mette su un binario parallelo la carriera di Domenico Modugno. Garinei e Giovannini hanno la vista lunga, hanno l'esperienza, raramente sbagliano. Quando scelgono Modugno per la parte del protagonista gli affidano la scrittura delle musiche, sanno già che la commedia diventerà un successo e le canzoni tratte da questa commedia saranno una più bella dell'altra. Il successo lui lo ha già raggiunto e adesso non sbaglia un colpo. Insomma, bisogna provare la sensazione di sentire l'applauso del pubblico. Poi se l'applauso del pubblico arriva da tutte le parti del mondo, ancora, il sogno diventa ancora più intenso. L'applauso è il complimento più bello, più autentico, più secco, senza bisogno di tante frasi, di tante cose. Quando c'è l'applauso ed è forte, a seconda dell'intensità, più intenso è l'applauso, più il complimento è grande, più uno è felice, più si solleva. E poi tutta questa ubriacatura di successo forse porta a una piccola flessione dopo la vittoria a Sanremo del 66. I risultati insomma sono lontani, d'altra parte è difficile ripetere i record di pezzi come Volare. Ci vuole un altro grande successo. Intanto lui nel 69 è impegnato in teatro con una commedia musicale, Mi è caduta una ragazza nel piatto, e accanto a lui c'è una ragazza, appunto, che è quella che gli cade nel piatto, che si chiama Enrica Bonaccorti. È proprio lei che racconta come è nato un altro grande successo di Modugno. Stavo in teatro con lui e allora tutte le sere in camerino, no, lui si va prima in teatro, no, già alle 7 sei lì. Io non mi rendevo conto della fortuna che avevo di averlo lì a 1 metro, metteva la sedia lì, poi i camerini sono piccoli, e cominciava con la chitarra a suonare le canzoni. E dato che sono molto estroverso, sono sempre stato, ho detto guarda che io scrivo le poesie, le cose, così e cosa. E un giorno mi dice guarda, qua c'è questa musica che ha già delle parole. Dice sì, è carina, però sei un po' sciapa, un po' cosa, non è che tu hai un'idea. E così Enrica Bonaccorti prende coraggio, mostra a Modugno una frase scritta su un suo diario: la lontananza è come il vento, spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi. Niente male. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Così con la lontananza il successo ritorna, e naturalmente quando uno scrive una canzone come Nel blu dipinto di blu non può sperare di ripetere quel miracolo, però non si può certo parlare di crisi nella carriera di Modugno. Anche perché lui negli anni 70 alterna la sua attività di cantante con quella di attore di teatro, vive un decennio di notorietà consolidata, e c'è anche la televisione. Scaramouche per esempio fu un sceneggiato televisivo che piaceva molto alla gente, come Bella l'avventura era la sigla. I tempi stanno cambiando però nel frattempo, eppure lui riesce a tenere duro. Ci sono ancora successi che lo fanno rimanere in primo piano. Poi va a teatro e interpreta il Cyrano, Le Cyrano, ma nella sua carriera interpreta anche Pirandello, Brecht, e riesce a passare dall'opera da tre soldi a canzoni come Piange il telefono o Il maestro di violino, canzoni che peraltro ebbero grandissimo successo, ma insomma che non possono essere ricordate come dei capisaldi della musica d'autore. E poi magari ci sono canzoni che non hanno avuto il successo sperato quando sono state pubblicate e poi però sono state rivalutate successivamente. Per esempio Meraviglioso viene eliminata nel 68 dal Festival di Sanremo, poi diventerà un grande successo, poi recentemente è stata anche ripresa. Così la mia vita artistica non è un filo logico che uno inizia e finisce. Poi un artista ha dei momenti, ha delle pazzie, delle follie. Io per esempio canterei anche, non so, La Tosca per esempio. Se mi prendono in un momento della mia vita, io prenderei un brano della Tosca e lo canterei perché mi eccita in quel momento. L'atteggiamento di un grande artista dovrebbe essere questo: anche a successo raggiunto si va a cercare nuove sfide per raggiungere un po' di pace interiore, ammesso che un artista possa averne. Ma lui ha anche dichiarato che a lui sarebbe bastato rimanere in casa con le sue canzoni e le sue sigarette. Eh sì, le sigarette, una vera e propria passione all'Italo svevo proprio. Si parla di 50-60 sigarette al giorno, insomma certi vizi a volte poi si pagano se non sei fortunatissimo, se non sei Keith Richards dei Rolling Stones. A un certo punto bisogna fare i conti con la salute. E così il 12 giugno 1984, siamo negli studi Mediaset, lui sta registrando un programma, si chiama La Luna nel Pozzo, perché nel frattempo fa anche con successo il conduttore televisivo. Viene colpito da un ictus, si salverà, si racconterà che è stato curato con un po' di ritardo, ci fu anche un contenzioso sulla vicenda. Comunque la verità è che lui rimane in parte paralizzato e in qualche modo questo segna ovviamente in maniera nefasta la sua carriera artistica. Ha anche difficoltà nell'articolare le parole, è un colpo d'ala verso il basso, ma lui non è un uomo a cui piace smettere di combattere, anzi da quel momento inizia una sua seconda vita lontana dal mondo della canzone, una vita che lui dedica agli altri, all'impegno sociale, all'impegno politico. La nuova vita di Modugno in realtà affonda le radici negli anni 70, perché lui aveva già mostrato un certo impegno politico, aveva lottato per esempio come tanti altri per l'approvazione della legge sul divorzio nel 71. Adesso nell'86 sono passati 2 anni dall'ictus che ha segnato profondamente la sua salute e quindi comincia a simpatizzare per le idee politiche di chi storicamente si è sempre messo dalla parte dei reietti, dei deboli, di quelli che hanno difficoltà, si è messo dalla parte di chi è sempre stato alle prese con battaglie difficili vinte con passione. Sto parlando di Marco Pannella e del Partito Radicale. Modugno si candida alle elezioni del 1987 e viene eletto alla Camera dei Deputati e lavora con molta dedizione a progetti per tutelare i disabili e per difendere il diritto d'autore. E poi naturalmente sono anche anni di riconoscimenti da parte del pubblico, serate in suo onore, di concerti in cui a fatica lui riesce ancora a cantare qualcosa delle sue canzoni più famose. Sono anni di incontri con la gente, 70.000 persone vanno a Polignano a vedere un concerto organizzato, diciamo, per riappacificarsi con il popolo polignanese, cioè per mettere fine insomma a una polemica che era durata decenni sul fatto che a Modugno veniva rimproverato il suo millantato credito sulla canzone siciliana in qualche modo. Ecco, lui chiede scherzosamente scusa alla terra di origine e dichiara che per avere successo si sarebbe anche spacciato per giapponese. E questo concerto a Polignano sarà anche l'ultimo della sua vita, perché Mimmo Modugno muore il 6 agosto del 94 in un altro luogo che a lui era molto caro, che era Lampedusa, la sua casa di Lampedusa, che è un posto bellissimo, lontano dai riflettori, dalla ribalta, lontano da un successo che lui aveva fortemente cercato, ottenuto con il suo talento e con quel pizzico di fortuna che non guasta nella vita. Io c'ho un proverbio che diceva mio padre, che lo ripeto sempre perché lo trovo giusto. Cioè, per avere successo nella vita, diceva mio padre, primo, bisogna avere fortuna. Secondo, bisogna avere fortuna. Terzo, bisogna avere fortuna, se no... Mai come in questo caso dobbiamo parlare di colpi d'ala, perché una persona, un artista che fa il giro del mondo con una canzone che si chiama Volare e che rende Volare la canzone più conosciuta italiana di tutti i tempi, ha assolutamente messo a segno il vero grande colpo d'ala. E poi c'è una vita di persona eclettica, curiosa, completa, una persona che ha dato tanto al mondo della arte a 360 gradi. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalate via mail al falco e il gabbiano @radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata. Seguitemi e interagite con me sul sito di Radio 24, insomma, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Pipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.